9 in punto. Buongiorno da Gianfranco Fabi. Come annunciato, parliamo di politica oggi. Parliamo di politica di fronte a una situazione in forte evoluzione, anche se per ora a livello di parole, a livello di intenti, a livello di promesse, a livello di ipotesi, di proposte. Una politica italiana che si sta avviando un po' convulsamente all'appuntamento ufficiale delle elezioni della primavera prossima. Qualcuno vorrebbe forse che si svolgessero in autunno, ma i tempi ormai stringono. Sembra che Monti possa restare fino alla primavera prossima alle elezioni. Qualcuno vorrebbe che restasse anche dopo. Anche questo fa parte della politica. I partiti si stanno organizzando un po' confusamente, sembrano non essere capaci di rispondere un po' alle esigenze che vengono dalla società. Pensiamo a quanto sta avvenendo per la legge elettorale, un meccanismo fondamentale per garantire la partecipazione dei cittadini, una legge elettorale di cui si discute molto, si parla forse troppo, ma di cui per ora non si è vista nessuna ipotesi concreta di riforma che possa essere approvata dal Parlamento in tempi rapidi. E quindi questo provoca anche un distacco dei cittadini dalla politica, una disaffezione, una sorta di antipolitica, una crescita dei movimenti che protestano ma non propongono, protestano, sono scontenti ma non hanno delle proposte concrete da fare. Allora in questa confusione, in fondo, in questo dibattito a più voci si inserisce un elemento magari diverso, che è quello dei cattolici in politica. I cattolici sono una realtà certamente importante della realtà italiana, hanno avuto un ruolo con un grande partito come la Democrazia Cristiana, nel bene e poi nel male, potremmo dire, durante gli anni della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, la Democrazia Cristiana si è un po' suicidata dopo Tangentopoli, ma l'offerta politica degli ultimi 20 anni non ha certamente risposto compiutamente alle esigenze del paese. Ritornare a una presenza attiva, organizzata dei cattolici in politica, questa è un po' la sfida che ha lanciato il professor Dario Antisari, che è tra gli ospiti di oggi. Buongiorno professor Antisari. Buongiorno a lei, dottor Fabio. Che ha lanciato Antisari con due articoli sul Corriere della Sera nelle settimane scorse, due articoli che hanno appunto riproposto con forza l'esigenza di una realtà organizzata, di un partito, di un nuovo partito, poi vedremo come potrà essere chiamato, un nuovo partito dei cattolici o di cattolici, non tanto che raccolga tutti i cattolici, ma che raccolga una quota significativa di quanti hanno, secondo Antisari, una impostazione, come dire, legata ai principi di Sturzo, di De Gasperi, di uno Stato liberale, di uno Stato di economia sociale di mercato, in cui gli elementi appunto di solidarietà si uniscano gli elementi di profondi di libertà, ma sarà lo stesso Antisari a spiegarci. Ma vi presento anche gli altri ospiti della trasmissione di oggi. Buongiorno Stefano Folli. Buongiorno, buongiorno. Editorialista del Sole 24 Ore, commentatore politico. Buongiorno a Carlo Costalli. Buongiorno Costalli. Buongiorno dottore, grazie. Carlo Costalli è presidente nazionale di MCL, Movimento Cristiano dei Lavoratori, che è una delle componenti, poi ci spiegherà anche, che sta portando avanti costruttivamente un progetto politico concreto. E buongiorno a Luigi Amicone. Buongiorno Amicone. Buongiorno. Direttore e fondatore del settimanale Tempi, un settimanale cattolico, poi ci spiegherà lui qual è la sua posizione come cattolico di fronte a questa ipotesi. Ma innanzitutto facciamo spiegare al professor Antisari perché ha voluto e insiste su questo tema: ci vuole un nuovo partito cattolico. Professor Antisari. Sì, grazie. Io voglio dire questo. In sostanza, dopo l'implosione della DC 20 anni fa, la posizione, diciamo così, dei cattolici è stata questa: che i cattolici si sono dispersi in una diaspora, si sono dispersi in tutti i gruppi politici. E l'idea, che appunto era anche del cardinale Ruini, era questa, che i cattolici ovunque siano di una loro testimonianza. Ora, questa era una necessità in quegli anni, insomma, non si poteva fare altro. Solo che questo progetto, insomma, è fallito. Ed è fallito, io faccio solo un esempio: lei, dottor Fabi, stava lì al Sole 24 Ore con De Bortoli, abbiamo fatto una campagna per il buono scuola, e tutta questa campagna è finita per esempio nel vuoto. Perché? Perché appunto i cattolici sono presenti ovunque e appunto inefficaci dappertutto. Io penso, sai, dice, dai testimonianza morale, io vado in un gruppo, sono in un partito, faccio le mie proposte in base alla dottrina sociale della Chiesa, in base alle mie idee e ai miei ideali, e gli altri mi votano contro, io la do di testimonianza morale, ma dal punto di vista appunto politico sono rimasto totalmente appunto totalmente inefficace. Ora ci sono delle obiezioni, per cui diciamo, io mai penso come oggi ci siano le condizioni perché ecco i cattolici diano il loro contributo in una situazione, come diceva appunto prima lei, ecco, sostanzialmente molto molto critica e con poche speranze. Ora si dice, scusi, parlo solo al nocciolo della faccenda, perché si dice non ci sono le condizioni perché nasca un partito di cattolici appunto liberali e solidari, sulla scia di Don Sturzo o di De Gasperi o anche della Chiesa o anche della scuola di Friburgo. Ora, è vero l'opposto, io penso che mai tanto spazio c'è stato per i cattolici quanto oggi, ed è un dovere morale, io penso che i cattolici diano il loro contributo. Ovvero c'è anche l'altra posizione, più volte ribadita anche in questi ultimi due mesi, i cattolici devono restare nel prepolitico. Eh sì, noi facciamo il prepolitico e gli altri appunto fanno il politico, noi facciamo un manifesto e gli altri fanno leggi e magari leggi a de personam. Se poi si dice manca il federatore, ma come? Costalli, non potrebbe essere tu, Costalli che sei là, appunto non potresti essere un federatore, non ci sono appunto dei federatori, Riccardi, Marini, appunto Guarini, Costalli. Ecco, e si dice non c'è federatore, e nel frattempo cosa si fa? Si invocano questi nuovi messia, quei due o tre tigellini, i quali quando il Nerone di turno busciava Roma non stavano né sulla luna né al pub. Poi c'è l'altra idea dei federatori, della condensazione, cioè che i cattolici ecco, si condensino un po' di più, un po' di qua, nei vari partiti, e in questo modo appunto, questa è per fare di nuovo gli ascari. Cioè io credo che sia una cosa molto importante. Ecco, veramente che oggi i cattolici diano il loro contributo in un partito serio, liberale e solidale, perché appunto, ecco, questo nostro paese, ecco, ecco la famiglia. Professore Antisa, ecco. Come lei ha scritto, si tratta di creare le condizioni perché queste realtà divengano effettive, perché le condizioni storiche e sociali in cui gli uomini operano non sono realtà metafisiche legate all'eternità, sono piuttosto realtà fattuali da combattere o eventualmente da creare. Infatti, certo. Questo lei ha scritto sul Corriere della Sera. Ecco, ci sono già molti messaggi che stanno arrivando al nostro 349-238-6666, così come invito gli ascoltatori a chiamare all'824-0024. Ne riassumo uno che mi sembra molto esplicito nella sua, diciamo così, brutalità. Professore Antisoli dice: ma i cattolici hanno governato per 40 anni, non hanno rubato abbastanza per riproporsi ancora oggi? Forse ecco, questo, la democrazia cristiana non è finita nel modo migliore. Forse questa immagine di una politica che è stata anche una politica della corruzione è ancora legata purtroppo anche ai cattolici. E invece quelli che sono venuti dopo non l'hanno rubato e hanno fatto bene, cioè la questione è un'altra, c'è una generazione di che, a parte il fatto che senza il mondo cattolico nel dopoguerra l'Italia non sarebbe risorta, perché l'Italia è risorta proprio perché c'è stato De Gatto e ci sono dei cattolici che sono impegnati, che poi erano le cristiane, l'ultima DC si sia comportata male, questo è vero ed è finita, ma questo non significa che sono finiti i cattolici. Guardi, solo due esempi che lei citava prima. Esiste in Italia la Caritas, e questo è il mondo cattolico, la Caritas ha fatto nel 2011 7,5 milioni di pasti, 14,000 servizi sanitari, è un mondo ricco, imponente, e senza questo mondo dei cattolici questo paese noi avremo appunto le piazze e le strade piene di disperati, affamati e disperati. Allora dico io, c'è bisogno, ci sono anche federatori. Ecco, io dico, c'è un mondo cattolico sano che non è interpretato. Io non ce l'ho con un mondo cattolico. Io sono un devoto peccatore, io non sono un altro devoto, sono un devoto peccatore. Io ce l'ho appunto con i politici. Alcuni sono anche bravi, per carità, non guardo le loro intenzioni, con i politici che sono nella diaspora non contano effettivamente niente. Ecco perché c'è bisogno di un partito di appunto di cattolici liberali e solidari. Grazie Tisoli, resti ovviamente con noi. Io vorrei adesso passare a chiedere a Stefano Folli, dal suo osservatorio pragmatico, direi molto, molto di buon senso sulla realtà politica, se guardando all'attuale situazione politica, gli attuali movimenti che ci sono all'interno della politica, con la nascita anche di nuove realtà, di nuove ambizioni, appunto politiche più o meno indipendenti, più o meno schierate, se c'è veramente questo spazio per ricreare un partito cattolico, anche perché, qui aggiungo, forse un partito cattolico c'è già, è quello di Casini, ma è veramente un partito in cui i cattolici si riconoscono. Stefano Folli. Ma io ho ascoltato con molta attenzione il professor Antisi e conosco le sue posizioni e ovviamente sono d'accordissimo sul ruolo di grandissimo rilievo avuto dai cattolici nel dopoguerra, ruolo sia politico che sociale. E penso che oggi un partito che si richiami esplicitamente alla dottrina cristiana della Chiesa mi sembra che sia difficile da immaginare in questa forma, però io penso anche che la lezione, al di là di queste polemiche, battute polemiche degli ascoltatori, ma insomma il ruolo storico della Democrazia Cristiana lo conosciamo benissimo. Penso che De Gasperi sia stato soprattutto un grande statista, è stato anche un cattolico, ma è stato soprattutto un grande statista liberale, che non ha esitato tra l'altro a entrare in urto con lo stesso pontefice in alcune circostanze, segno che la sua concezione dello Stato sapeva distinguere bene, diciamo, la sua responsabilità di servitore dello Stato rispetto alla sua fede religiosa. Penso che oggi sia necessario un partito, un movimento, un rassemblement che occupi il centro della scena e che raccolga cattolici e non cattolici in nome di un senso dello Stato e di una capacità di immaginare le istituzioni nella società di oggi così frammentata. Voglio dire, non è necessario, non è indispensabile essere cattolici per esempio schierarsi a favore del buono scuola, per riprendere l'esempio che faceva prima Antisi. Ci sono elementi della dottrina dell'economia sociale di mercato che possono essere declinati in chiave liberale ed essere estremamente utili nei frangenti che viviamo. Io penso che i partiti di oggi, piuttosto confusi, hanno perso gran parte della loro identità ed sono confusamente alla ricerca di una nuova, avrebbero bisogno di attingere a questi esempi per riuscire a ritrovare il senso dei propri valori. Penso che un partito di cattolici e di non cattolici che sappia occupare il centro della scena politica con una saldezza e con una forza elettorale, naturalmente, che il partito di Casini, come tu dicevi adesso, non ha ancora, o magari non avrà mai, ma insomma il problema non è il partito di Casini, il problema è saper individuare uno spazio e saper costruire intorno a questo spazio un sistema di valori, un'identità. In questo senso i cattolici possono dare un grande contributo, ma accanto a loro possono darlo dei laici che non siano credenti. L'importante è immaginare, avere un'idea della società che si vuole costruire. In questo senso quello che ha detto Antisi mi trova d'accordo. I cattolici o i non cattolici liberali possono insieme dare un contributo e colmare questo vuoto che c'è oggi nel sistema politico, quale che sia la legge elettorale che si vuole immaginare. Il nostro problema è ricostruire un partito che sia, diciamo, di sistema. Ecco, in un certo senso però, Folli, si può dire, si può dare un giudizio sulla presenza dei cattolici negli ultimi anni all'interno un po' di tutti i partiti, perché poi li abbiamo trovati nelle ultime legislature all'interno sia dei partiti di destra sia dei partiti di sinistra. Direi che forse ha ragione Antisi, sono stati un po' irrilevanti nella formazione del pensiero politico, dell'azione politica di questi partiti. Questo può essere senz'altro vero, però io penso che oggi il problema sia, diciamo, l'eccesso di frammentazione che ha disintegrato il nostro sistema. Oggi il problema è ricostruire un sistema politico e in questo senso i cattolici possono dare un contributo, lo possono dare ciascuno nella formazione che è stata scelta fino adesso. Non necessariamente si devono muovere tutti insieme verso una nuova formazione, l'importante è che si abbia il senso di un sistema che va ricostruito e a cui bisogna restituire un equilibrio, e in questo senso i cattolici possono dare un grande contributo a ricostruire l'equilibrio di un sistema che l'ha perduto. Ecco, ti faccio un'ultima domanda, poi so che hai altri impegni e ti lasciavo andare, Stefano Folli. Ma guardando un po' in avanti, facciamo l'ipotesi delle elezioni della primavera del 2013, avremo ancora da scegliere tra Berlusconi e Bersani? No, la tua domanda allude un po' anche a ciò che avevi detto nella premessa, il fatto che l'ipotesi che Monti rimanga al governo anche dopo il 2013 secondo me è un'ipotesi politica realistica, non significa che i partiti la vogliano, i partiti non la vogliono affatto al momento, però io penso che ci sia un problema, diciamo, di credibilità delle persone, non soltanto di adesione formale al programma europeo che Monti ha diciamo, messo in pratica in questi mesi, ma c'è anche un problema di credibilità delle persone che rappresentano l'Italia e che rappresentano quindi la verosimiglianza del programma europeo, del programma di risanamento economico che è stato adottato. In questo senso i partiti è bene che facciano il loro gioco, sarebbe molto meglio se avessero delle posizioni più chiare, un'idea più certa delle alleanze e soprattutto, diciamo, una capacità di rappresentare una visione del paese, non tanto una lista, un programma come una lista della spesa, ma un'idea del paese che vogliono realizzare nei prossimi anni. Ma occorrono delle persone credibili in questo momento. Ora, in questo momento io penso che sia difficile fare a meno di Monti come Presidente del Consiglio. Certo, dovrà essere un governo fondato su un equilibrio politico, non più un governo di emergenza, quindi con questa caratterizzazione tecnica. Dovrà essere fondato su un equilibrio politico, che può essere un equilibrio di una parte, ma può essere anche una larga coalizione dopo il voto. L'importante è che ci sia una piena adesione al destino europeo del paese e alla sfida terribile che stiamo vivendo. In questo senso, secondo me, il sistema politico si può rilegittimare pienamente. Non un passo indietro dei partiti, ma una capacità dei partiti di interpretare questa nuova fase e di rigenerarsi anche sul piano delle idee e dei programmi, utilizzando anche il fatto che Monti in questo momento è il personaggio che rappresenta meglio l'Italia nel mondo e in Europa. È difficile immaginare che nel maggio 2013 si possa presentare un altro premier con una combinazione politica che adesso non possiamo immaginare e che possa avere la stessa credibilità di Monti. Quindi è un fatto empirico, un fatto, diciamo, imposto dalle circostanze, che può portare nei prossimi due anni, tre anni, ad avere ancora Monti dentro una cornice politica e come rappresentante del nostro paese. Ecco, grazie Stefano Folli. Indubbiamente i partiti potrebbero fare un passo indietro virtuale per far fare due passi avanti al paese, in un'ipotesi appunto che veda gli interessi del paese in primo piano, al di là appunto degli interessi poi dei singoli, che se viene fatto l'interesse del paese vengono comunque rispettati. Io ringrazio Stefano Folli, so che devi lasciarci, buon lavoro e buona giornata. E allora continuiamo con Carlo Costali e Luigi Amicone a vedere un po' i due aspetti di questa partecipazione politica. Carlo Costalli, presidente di Movimento Cristiano Lavoratori, ma voi state operando concretamente perché questa ipotesi di una realtà politica dei cattolici nuova si realizzi? Costalli. Beh, io credo che la questione principale sia il rinnovamento della politica, se vogliamo tornare a crescere, e quindi il rinnovamento della classe dirigente. Se si pensa di andare alle elezioni con questi partiti che non sono in condizioni presentabili e che questi possono riprendersi la gestione del bene comune, siamo fuori, credo, dal mondo, che non riescono a rinnovarsi, ad autoriformarsi, neppure, come ha detto lei, a contribuire a fare una legge elettorale. Beh, credo che effettivamente sia impossibile, se vogliamo cercare di superare la disaffezione, come l'ha richiamata lei e anche il professor Antile, la stanchezza, la delusione che anche ormai ha travolto il mondo cattolico, l'astensione, la cosiddetta antipolitica. Beh, noi pensiamo a un contenitore dove noi cattolici possiamo costruire, come dire, una salda linea di difesa dei nostri valori e la capacità di rifensarli, di riposizionarli in termini, diciamo, modernamente programmatici, e per cercare di dare un contributo a riorientare questa società italiana. Come ha detto il dottor Folli, sono valori non confessionali, valori che la parte sa del mondo laico condivide, io credo, sostanzialmente. Ecco, quindi per questo percorso che stiamo facendo, è chiaro che la responsabilità ricade in primis su noi, sui cattolici, su quei cattolici che ne hanno voglia, che non vogliono disertare, ma io credo che debba coinvolgere paritariamente anche il mondo laico, che in questi valori si riconosce. Io credo, per fare un esempio, che emerga chiaramente, come dire, la necessità di un'iniziativa politica alta, in cui vengono messe a confronto l'opzione per un'economia liberale, per un'economia liberale di mercato. Ho letto con attenzione questi giorni anche il manifesto del dottor Giannino, con un'economia sociale di mercato, con un'economia sociale di mercato moderna, ecco, che a noi sta particolarmente a cuore. Se partiamo da queste posizioni, io credo che il lavoro che stiamo facendo porterà a un risultato concreto. Sarà una tappa intermedia che va continuata anche dopo le elezioni. Grazie Costalli, certamente torneremo su questo problema. Volevo sentire da Luigi Amicone, fondatore e direttore del settimanale Tempio, settimanale che fa riferimento a Comunione e Liberazione, se è più o meno della stessa idea. Amicone. Io capisco l'esigenza espressa da Antiseri, Costalli e capisco e vedo anche un senso, una passione finalmente che emerge tra i cattolici, e questo è un buon segno. Dal punto di vista pratico mi pare che abbia ragione Stefano Folli, e cioè la realizzazione di un partito o comunque di una realtà che poi determini un partito esige, secondo me, un punto di vista di laicità indispensabile, e cioè l'idea di cattolici e non cattolici, perché pensare che per il bene comune, per aiutare la ripresa di questo paese, diciamo la caratterizzazione di cattolici oggi sia un elemento che possa determinare il partito, direi di no, perché non è automaticamente il fatto di essere caratterizzati come cattolici, tanto più che anche nel mondo cattolico c'è molta confusione, ci sono molte, come dire, anche sui temi fondamentali della vita, abbiamo visto vita, morte, eccetera, che ci sono addirittura cattolici che ritengono di spiegare alla Chiesa che quali sono i valori veri. Quindi sono per l'idea di Folli, cioè ci occorre un partito o comunque una realtà di uomini che si impegna a questo livello, cattolici e non cattolici, che occupano il centro, diciamo, della scena politica, ma centro vuol dire, secondo me, il superamento evidentemente dell'elemento ideologico, della dimensione fittizia della politica, perché oggi fare politica vuol dire veramente tornare a occuparsi di strade, luci, lavoro, cose concrete, non evocare grandi scenari. Da questo punto di vista, per andare nel concreto, io vedo delle forze in campo da utilizzare. Penso, per esempio, è stato citato il manifesto di Giannino, parte, diciamo così, laica, manifesto di Giannino attorno al quale diverse personalità si sono costituite, c'è l'area di Italia Futura, imprenditori, c'è a maggior ragione, secondo me, una realtà politica che rappresenta un patrimonio concreto, cioè non è soltanto una promessa. Storicamente, qualunque sia il destino di chi oggi la governa, la Lombardia dimostra in questi ultimi 17 anni di essere una originalità virtuosa in questo paese, cioè dimostra che, ad esempio, la dottrina sociale della Chiesa può essere applicata in un modo moderno, laico, efficace, efficiente, essere riconosciuta a livello della sua concezione liberale della sanità, della scuola, dell'investimento nelle infrastrutture, considerata a livello degli standard internazionali come una realtà molto vicina. Oggi il governatore Formigoni citava la Baviera, molto vicina alla all'esempio della Baviera. Quindi questo è un modello che c'è, altro che il centrodestra che conosciamo storicamente qui. Se vogliamo fare, ecco, avevamo citato Berlusconi, a fronte di un diciamo ventennio, purtroppo bisogna dire, che aveva suscitato tante aspettative, ma che alla fine a livello nazionale è risultato, diciamo, se non fallimentare, comunque non ha mantenuto le promesse di cambiamento che aveva suscitato grande consenso, immaginiamo l'ultima legislatura, la situazione in cui siamo, noi abbiamo, rimane di questo centrodestra una realtà sul territorio italiano, di governo del territorio, pratico, concreto, che ha funzionato. Ecco, di questo parleremo anche più avanti, indubbiamente forse l'immagine che spesso viene data, soprattutto dai mezzi di comunicazione, non è tale da rendere ragione di quello che avviene nella realtà, i cittadini forse hanno una idea, possono avere direttamente un'idea diversa. Grazie a Micone, resta con noi, ritorniamo subito, diamo spazio alla pubblicità. Grazie, bentornati a 9 in punto. Stiamo parlando dei cattolici in politica. Vi ricordo l'800 24 00 24 per le vostre chiamate, il 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS. Ho interrotto Luigi Amicone che stava parlando di una realtà concreta come quella lombarda. Devo dire che gli SMS che riceviamo sono preponderanti verso i cattolici facciano i cattolici e lasciano che la politica faccia la politica, perché quando sono entrati in politica hanno dimostrato poi di avere tutti i difetti che hanno tutti e che si lasciano cadere nelle tentazioni, e qualcuno dice Formigoni l'ha dimostrato. Allora, concludendo, Luigi Amicone, proprio su questo punto. No, ma su questo punto anche qui noi dobbiamo rovesciare un paradigma culturale, cioè tutti quelli, compreso i nostri ascoltatori che scrivono, tutti sappiamo benissimo che siamo capaci di fare errori. Il problema della politica non è che ci siano persone che siano talmente specchiate da non muovere un dito, perché l'alternativa è l'inettitudine di coloro, dei puri, che stanno fuori da tutto, perché politica vuol dire evidentemente mettere, rischiare anche di fare gli errori. Diverso è la disonestà, e non possiamo attribuire ai cattolici per principio, scusatemi, perché da questo punto di vista tutti devono fare i loro mea culpa. Credo che non si possa partire dalla premessa per cui c'è qualche persona più pura degli altri. Ce lo hanno fatto credere in questi anni con un'ideologia direi qualunquista, perché non esistono i puri, quando vedremo che ci sono anche parte di corporazioni che si pensano pure che saranno anche loro portate in giudizio per gli errori che hanno compiuto. Il problema è assumere delle responsabilità, avere un programma e da quel punto di vista, ripeto, nel caso Lombardia, non, al di là di comportamenti personali, ci sono dati di fatto, cioè la Lombardia è stata amministrata meglio, c'è più libertà, c'è un'efficienza sanitaria che non c'è dall'altra parte d'Italia, c'è un attivo di bilancio, mentre i cittadini oggi devono pagare per i buchi fatti da tre quarti delle regioni d'Italia, e pagano con le loro tasche, con le loro tasse. Questo è già un risultato assolutamente eccezionale, perché di che cosa parliamo quando parliamo di politica? Parliamo della possibilità che i cittadini possano vivere del loro lavoro, non debbano pagare le tasse in modo eccessivo, e non le pagano le tasse in modo eccessivo nella misura in cui le amministrazioni sono virtuose. In questo senso io dico, al di là delle vacanze oppure dei reati eventuali che possa aver compiuto il governatore, c'è un fatto che neppure i giudici, neppure il Padre Eterno, neanche Dio, neanche la Chiesa può togliere, e cioè che i risultati della classifica italiana delle amministrazioni sono quelli: sanità, lavoro, occupazione, scuola, produzione, la Lombardia è in cima. Questo vuol dire che è un paradigma che bisogna, se non si è stupidi, se non si è accecati dall'ideologia del purismo inetta, perché ci porta da nessuna parte, questo tipo di ideologia, si parte dai fatti virtuosi concreti. Sì, certo, la sanità in Lombardia è qualcosa che funziona, lo possono ammettere tutti, lo devo dire anche per esperienza diretta, è anche una regione che accoglie persone, cittadini italiani che vengono da altre regioni per farsi curare in Lombardia. Poi ci sono problemi, problemi evidenti, il problema enorme del San Raffaele è sicuramente un problema di cattiva gestione, anche di cattiva gestione da parte dei cattolici animati dalle più buone intenzioni, ma i perfetti non esistono, il perfettismo è qualcosa che, come insegna il filosofo Antisari, a cui daremo la parola tra poco, è qualcosa che non dovrebbe fare parte, lo insegnava già Rosmini, della logica della società. I perfetti non ci sono, tutti possono sbagliare, il problema è forse sbagliare il meno possibile, essere il meno possibile corrotti, essere il meno possibile incapaci di gestire la realtà, però essere soprattutto animati da buone intenzioni e non da giudizi drastici. Ecco, dai messaggi che arrivano prevalgono i giudizi drastici, i giudizi forse che si basano molto su pregiudizi o su realtà che indubbiamente possono essere discusse, possono essere affrontate, possono essere criticate, ma indubbiamente forse non meritano dei giudizi tanto drastici come quello che sembra che arrivino, come appunto chi dice i cattolici tornino nelle loro chiese e non mettano le mani nella politica. Ma sentiamo un ascoltatore, Cristian, il nome è tutto un programma, Cristian da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno Salva, a parte che non volevo parlare della sanità, però visto che l'ha tirato in ballo, dico che la sanità lombarda funziona fino a quando non ne hai bisogno, nel senso che si sa. No, ma questo la contesto, chi ne ha bisogno sa che funziona. Io ne ho avuto bisogno e non è che non funziona la sanità, funziona perfettamente. Problema è che hai, quando fai una prenotazione, tipo un oculista per un bambino che ne ha bisogno perché se va a scuola ne ha bisogno immediatamente, ti danno l'appuntamento dopo 3 mesi, quindi tu sei costretto ad andare dal privato. E qua finisco qui, non era questo l'intervento che volevo fare io, questo è un esempio. Allora, il problema è questo, che nella politica la religione, i cattolici fondamentalmente dovrebbero starne fuori, la politica è laica. A parte questo, a me va benissimo che si mettano in un partito unico, perché almeno non sono sparpagliati a far danni ovunque, sappiamo dove sono e non li votiamo. Grazie mille. Grazie mille, grazie della sua provocazione. Allora, tornerei con Dario Antisari. Ci sono stati molti elementi in queste discussioni, molti elementi appunto che da una parte, come era immaginabile, sono elementi critici verso un eventuale impegno politico dei cattolici, dall'altra elementi che invece, dato proprio la situazione, porterebbero a sostenere il fatto che i cattolici, ma non come cattolici che vogliono costringere tutti gli altri ad andare a messa la domenica, ma che vogliono portare dei valori reali all'interno della società, ecco, dovrebbe essere qualcosa di positivo per far crescere complessivamente la libertà, perché uno degli elementi di fondo in fondo del cattolicesimo proprio la libertà, anche la libertà religiosa. Allora, Dario Antisari, quali elementi può trarre da questa discussione che abbiamo fatto finora? Beh, innanzitutto io la ringrazio per aver richiamato l'idea di antiperfettismo di Rosmini, diciamo, no? Diceva, ecco, un filosofo a me caro, ma che ho conosciuto da tutti oggi, cioè Karl Popper, che razionale non è un uomo che voglia avere ragione, quanto piuttosto un uomo che vuole imparare dai propri errori e da quelli altrui. Quindi con l'amicone qui io sono d'accordo. No, però vorrei dire una cosa al telespettatore di prima, che diceva appunto che i cattolici, siccome ci sono stati esempi di corruzione nella vecchia DC, allora devono sparire dalla politica e rimanere nelle chiese. Perché voglio dire, se i cattolici devono sparire dalla politica perché alcuni sono stati corrotti, purtroppo, erano delle corrotti, allora qui non dovrebbe esistere più nessun partito in Italia, specie questi ultimi. Primo. Secondo, dice, ma i cattolici insomma hanno dato cattive sé, però sono stati quelli che hanno salvato il paese. Vorrei ricordare a quel nostro ascoltatore che gentilmente è intervenuto, vorrei ricordare che quando De Gasperi va in America e appunto sale sull'aereo, quel cappotto a chiedere aiuto andava, bene, quel cappotto gliel'aveva prestato un amico ed è molto povero. E un altro episodio, Gonella era ministro della pubblica istruzione, sua sorella era una maestrina che insegnava in un paese fuori Verona, e doveva andare in bicicletta sotto la nebbia, che conosciamo, di Verona, Bene, non chiese appunto il trasferimento a Verona, perché altrimenti avrebbero detto che suo fratello, che era ministro della pubblica istruzione, gli avrebbe dato il trasferimento. Quindi se ci sono stati esempi di corruzione nella DC, ci sono esempi di eroismo, di onestà continua. Ma quello che volevo dire poi è proprio questo, cioè ripeto che il mondo cattolico è una imponente realtà nel nostro paese. Ricordo che sono 14.300 i servizi promossi dei cattolici, i servizi sociosanitari. Sono 800.000 il numero degli alunni che frequentano le scuole paritarie facendo risparmiare allo Stato fiumi di miliardi. Sono 450 le mense, 7 milioni i pasti che dà la Caritas e così di seguito. Cioè, questo mondo cattolico, ecco, è una realtà portante, imponente del nostro Paese che non l'ha interpretato dal punto di vista politico. Io faccio degli esempi. La famiglia, tutti parlano della famiglia. Bene. Non siamo la politica in Italia non in questi ultimi anni, ecco Amicone qui mi può dare conforto, non si è riusciti a fare il buono quoziente famiglia, una famiglia che ha 4 figli, la vogliamo aiutare facendogli pagare meno tasse? La scuola, è morta una scuola cattolica ogni 3 giorni, tutti zitti, eppure le scuole cattoliche innescano linee di competizione che sono d'aiuto per per la scuola di Stato e la scuola non di Stato, perché la scuola di Stato è un bene, un patrimonio grande che abbiamo, che va salvato, ma va salvato dallo statalismo. Ecco questo mi sembra un elemento importante, questo che non si tratta di fare uno Stato confessionale, uno Stato integralista, uno Stato che voglia, in cui una parte, come appunto i cattolici, voglia occupare delle posizioni, ma uno Stato che sappia trovare all'interno una competizione anche di idee, una competizione anche di realtà, anche nella scuola, qualcosa che, non, che uno Stato che sia uno Stato di sussidiarietà, che intervenga dove i privati non riescono a intervenire, che intervenga dove la realtà sociale non riesce a intervenire. Ecco, in questo i cattolici sicuramente hanno nella loro esperienza, nel loro passato, tante cose di cui pentirsi, ecco, e forse non basta pentirsi e poi andare avanti, si tratta forse anche di cambiare atteggiamento, di cambiare strada, però nell'ottica di uno Stato appunto laico in cui la partecipazione di tutti sia riconosciuta e che i cattolici non siano né privilegiati ma nemmeno messi in secondo piano o costretti a essere in silenzio perché sono cattolici. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. Eccoci tornati per l'ultima parte di 9 in punto, parliamo di politica, parliamo della realtà italiana, di una politica italiana che è alla ricerca di nuovi assetti, che è alla ricerca di una nuova efficacia della politica dopo aver dimostrato da una parte il fallimento della Prima Repubblica e dall'altra il fallimento della Seconda Repubblica, tanto che i partiti hanno dovuto responsabilmente fare un passo indietro dando spazio appunto a un governo tecnico che cercasse di risolvere i problemi del paese. Ecco, indubbiamente guardando in avanti, guardando alla ricostruzione di una politica, il tema dell'impegno dei cattolici, da una parte rilevante, sottolineato nel precedente intervento del professor Antisari, una parte rilevante di impegno, di presenza sociale all'interno della società non può essere messa in secondo piano, anche se indubbiamente c'è sul fronte dell'esperienza passata qualcosa che pesano gli errori, pesa indubbiamente la corruzione, pesa l'incapacità di rispondere anche a problemi che dovrebbero essere vicinissimi ai valori cattolici. E il professor Antisari ricordava appunto l'impegno per la famiglia, l'impegno una società più equa e più giusta. Quindi su questo fronte forse merita discutere, non certamente avere delle soluzioni, non certamente proporre delle implicazioni ideologicamente bloccate, ma quello che cerchiamo di fare è di discutere, cercando appunto di valorizzare al massimo una realtà come quella italiana, che è fatta di tante componenti, di tante idealità, e non è mettendole una contro l'altra che si può pensare di riuscire appunto ad affrontare i problemi, ma cercando di guardare insieme nella stessa direzione, senza accentuare i contrasti, che si può cercare appunto di ritrovare una solidarietà che di fatto c'è poi nelle cose, nella società, nella realtà delle nostre città e dei nostri paesi. Silvio da Monza, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io volevo dire che io sono un cittadino italiano e sono anche cattolico, e la cosa non è che è scindibile, eccetera, per cui io credo di avere il diritto e il dovere di esprimere quelli che sono i miei valori e la mia cultura in politica come italiano e come cattolico, così come non nego ad altri che hanno ideologie opposte alla mia di rivendicare i loro valori, no? Cioè, ma quello che a me dà fastidio, che molto spesso, anche quando andavo a scuola, per dire, no? Siccome sei cattolico, sembra che hai, cioè, il fatto che lo Stato debba essere laico, non, la laicità in assoluto non esiste, nel senso che la laicità è un'espressione di valori di diverse culture, fra cui esiste anche quella cattolica, cioè non è che allora il cattolicesimo o altre fedi religiose devono essere rese tabula rasa sull'altare della laicità. Cioè, sono valori diversi che hanno, non dico più valore di altri, né siamo più bravi, né siamo più cattivi, siamo così e abbiamo il diritto di esprimerci e il dovere di esprimerci. Grazie mille Silvio Abronza. Indubbiamente portare dei valori vuol dire anche riuscire a valorizzare i valori altrui, perdonatemi il bisticcio di parole, però dovremmo essere maggiormente convinti di questo, che non si tratta, appunto, come dicevo prima, di cercare a tutti i costi delle contrapposizioni, ma di cercare, appunto, di valorizzare quelle che sono le realtà di una società che è sicuramente più complessa e che merita sicuramente di poter fare dei passi avanti nella solidarietà. Allora gli invierei la conclusione, chiedo a Carlo Costalli, di fronte a questa, anche a questo dibattito direi anche molto accanito e molto contrastato sul fronte della possibilità, appunto, di realizzare qualcosa di nuovo sul fronte politico tenendo conto del passato, forse guardando in avanti si può cercare di realizzare anche una maggiore solidarietà tra laici e cattolici, tenendo conto che i cattolici sono laici come gli altri, ma tra ispirazioni diverse anche ideologiche all'interno della società. Carlo Costalli. Sì, grazie. Io esco rafforzato da un'idea, perché sei cattolico devi stare in sagrestia. Questo è uno slogan che sento spesso, ma è un esempio che non ci appartiene, almeno non appartiene a noi, alle grandi organizzazioni che hanno preparato Todi 1, che stanno preparando Todi 2 e che hanno dimostrato nel paese di essere una realtà associativa che opera nel territorio con grande esperienza, con grande coesione sociale, gli unici che hanno garantito coesione sociale, che esprimono una classe dirigente, gli unici che oggi esprimono una classe dirigente e che hanno garantito una tenuta del tessuto sul territorio. Il resto poi ognuno può dire quello che vuole. Il professor Antiriseri ha risposto bene a Giovane Cristian, peraltro lui in un recente articolo che avete citato su Corriere della Sera ha puntigliosamente elencato le opere che i cattolici spesso da soli fanno, ma sarebbe troppo bello, troppo facile per alcuno tenerci chiusi in quelle opere. Io credo che è necessaria una scossa per far ripartire il paese. Bisogna che la politica si riappropri di un ruolo, cambiando facce e cercando di essere vicina alle esigenze dei cittadini. E concludendo, ha ragione lei, mettendo in campo un movimento, un contenitore che non sia confessionale, ma aperto alla forte collaborazione tra laici e cattolici, che io credo possano collaborare, non a caso, e chiudo veramente, avevo accennato all'inizio di questa necessità, come dire, di una politica alta che metta a confronto un'opzione per un'economia liberale di mercato con quella di un'economia moderna, sociale di mercato. Credo che ci stiamo provando, credo che su questa base si possa tentare, almeno per quanto mi riguarda da cattolico, ho cercato di rispondere all'appello del Santo Padre e non voglio passare per un disertore. Grazie Costalli. Luigi Amicone, molto brevemente per concludere, come vedi questa evoluzione della realtà politica? Caro collega, come comprendiamo bene, c'è un punto di fondo che bisogna, credo che deve impegnare tutti, a tutti i livelli, laici, non cattolici e non. Il problema è che questo paese ha al fondo un'amarezza, un risentimento, anche in certi toni sprezzanti, una delusione. Questa deve essere contrastata, perché dobbiamo capire che se la politica non si rimette a capo tavola, nel senso che la politica è quella che ha la responsabilità di portare avanti un paese e di mediare gli interessi, fuori dalla politica o c'è la guerra o c'è il fascismo, non è che ci sono alternative, quindi c'è anche bisogno di una lotta culturale per capire e contrastare quella demagogia, ricordiamoci che fu la demagogia che mise le condizioni questo paese come la Germania di Weimar per andare nelle avventure più drammatiche, demagogia appunto fatta contro un ruolo indispensabile che deve assumere, qualcuno comunque deve assumere nel paese, perché la politica e i parlamenti sono i partiti, sono il centro della possibilità della nostra libertà e della democrazia, perché l'alternativa è diventare colonia di qualcun altro. Quindi questo discorso sul partito, sulla necessità di un ruolo dei cattolici che ci appassiona alcuni, è importante, ma c'è un prima che secondo me è una condizione anche perché si possa discutere di queste cose e avanzare, che è una battaglia culturale per ridare dignità nel senso di prospettiva al paese, e vuol dire assumersi la responsabilità di appunto che la politica è un'arte importante e fondamentale per la vita nostra e di tutti i cittadini. La politica è fondamentale indubbiamente, grazie a Micone. Peccato che la politica in questa fase stia dando una dimostrazione di sé non troppo edificante, con questa incapacità di rispondere ai problemi, con questo guardare ai propri interessi elettorali, con questo guardare al breve termine senza affrontare appunto le vere riforme di cui il paese avrebbe bisogno per essere un paese moderno. È una politica disarmante, una politica deludente, una politica che avrebbe bisogno indubbiamente di giovani forze, di giovani capacità, e siamo, forse io lo dico da anziano, ma indubbiamente si sente anche la mancanza di dare entusiasmo e capacità e volontà di partecipazione politica ai giovani, e questo nell'ambito e anche nelle contraddizioni e anche nella cattiveria che si vede, io leggo alcuni messaggi di veramente molto, molto cattivi, nella cattiveria che si vede nel giudicare la politica, che si è in fondo amareggiati nel vedere come la politica, che è fondamentale, invece venga appunto da se stessa considerata qualcosa che è incapace di affrontare i problemi. Un ultimo minuto per Dario Antiseri, professore. Guardi, dottor Fabio, ci vorrebbe che adesso veramente lei facesse un'altra trasmissione, perché ci sono un sacco di domande che vengono fuori. Io avrei molte domande da fare ad Amicone, per esempio una questa: perché allora il modello Lombardia e i cattolici non devono esportarlo appunto altrove? Ma in ogni caso la questione di fondo è appunto che, faccio un esempio, tutte le cose, molte cose vanno bene, ed è vero in Lombardia, per esempio una buona scuola che ha fatto Formigoni, ma certe cose vanno male, per esempio questa alleanza con la Lega in cui si è dovuto veramente ingoiare fiumi di turpitudini, diciamo così, non funziona. Dico da Micone. E a Costalli, io vorrei fare una domanda a Costalli, perché col caro amico Carlo molte cose andiamo d'accordo, ma io vorrei dire una cosa: lui parla di contenitore, io vorrei che lui uscisse dall'ambiguità. Questo contenitore è un partito o il solito prepolitico? Questa, Costalli, è la domanda di fondo, perché se tutti i due non risponde a questa domanda con chiarezza, noi perdiamo tempo. Ha detto che è un partito, e chiudiamo qua questa trasmissione. Sono d'accordo con lui, grazie. Grazie a Dario Antiseri, grazie a Carlo Costalli, grazie a Luigi Bicone e a Stefano Folli che sono stati con noi. Ecco, ci sono molte domande anche che vengono ai nostri sms, a una voglio rispondere. C'è una trasmissione senza contraddittorio. Ecco, secondo me uno dei problemi italiani è che ci vuole sempre il contraddittorio. Approfondire i temi vuol dire magari approfondirli, magari stando dalla stessa parte, poi gli ascoltatori possono stare da un'altra parte senza problemi e senza sentirsi appunto deprezzati sotto certi profili. Però non sempre tutte le cose devono avere un senso e il suo contrario, non sempre tutte le cose devono essere viste in maniera bipolare. Cerchiamo di vedere anche, di fare dei passi avanti guardando prima da una parte e poi dall'altra, ma senza affrontare comunque i contraddittori, perché c'è sempre una verità e il contrario della verità. Grazie anche a Franco Piantadida in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con l'informazione economica è per domani. Radio 24. La passione si sente.